Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione dedicata alle istanze, al pensiero e alle pratiche animaliste, antispeciste e vegan, che va in onda dal 2012 per contribuire alla costruzione di una società cruelty free. Siamo arrivati alla puntata numero 533, nella quale tenteremo di divagare rispetto alla questione del virus. Dedicheremo infatti il principale servizio alla bellissima audio recensione che la nostra amica, scrittrice, attivista Aida Vittoria Eltanin ha dedicato a un libro animalista che parla di cavalli, scritto da una donna nel 1877. Daremo spazio poi alla rubrica filosofica del professor Vallauri, che ci parlerà della Pasqua da una prospettiva eretica, come sempre gli piace fare, e chiuderemo la puntata con una ricetta che sarà festosa e, come sempre, rispettosa di ogni vita. Le sonorità della puntata, come sempre, sono selezionate dal nostro curatore musicale Giuseppe Cocco. Speriamo di avervi incuriositi. Vittoria Eltanin, che abbiamo conosciuto in passato attraverso tanti libri, La dieta di Eva, La salute di Eva, Le figlie di Eva e tanto altro, in occasione di questa pandemia sta registrando e mettendo gratuitamente a disposizione nel suo canale YouTube una preziosa collezione di piccole monografie. Ne registra e mette a disposizione una per sera, dedicandole a donne che nella storia in modi diversi hanno rappresentato un esempio, un incoraggiamento e che possono confortarci e darci ispirazione per superare questo difficile momento di isolamento. Tra le altre ci ha colpito quella che riguarda Anne Sewell, autrice di Black Beauty, un libro che nel 1877 denunciava i maltrattamenti e lo sfruttamento dei cavalli. L'animalismo attuale ha naturalmente istanze più moderne rispetto a quelle di Sewell. Oggi si inquadrerebbe Sewell tra i welfaristi, cioè coloro che non mettono in discussione il sistema dello sfruttamento, ma chiedono che questo venga riformato per ridurre il danno agli animali. Detto questo, però, bisogna riconoscere l'assoluto pionierismo di Sewell, tenendo presente sia la sua epoca, sia il suo punto di partenza, ovvero quello di una donna matura e disabile. Sentiamo quindi la recensione del libro Black Beauty, dalla bella voce di Aida Vittoria Eltanin. E vi invitiamo a cercare tutta la serie di Ninne Nanne al femminile nel canale YouTube di Aida Vittoria Eltanin. Questa notte scura invoco l'anima luminosa di Anna Sewell. Il suo unico libro si intitola Black Beauty e tratta della vita di uno splendido cavallo nero. È un classico della letteratura per bambini. Era il 1877 quando è stato pubblicato. Anna aveva già 58 anni ed era confinata in casa già da 8. Da piccola infatti aveva avuto un grosso problema alla caviglia e non poteva più camminare. Ecco perché conosceva così bene i cavalli. Erano loro che l'avevano per tutta la vita scarrozzata, letteralmente. Dopo i 50 anni la sua salute peggiora ancora di più, così tanto che non riesce neppure più a scrivere. Pensate che fu sua mamma, alla veneranda età di 80 e passa anni, a scrivere sotto dettatura questo romanzo. Vi dicevo che Black Beauty è considerato un libro per bambini, ma Anna non l'ha mai considerato un libro per bambini. Lei l'aveva scritto che aveva quasi 60 anni e l'aveva decisamente pensato per un pubblico adulto. L'obiettivo del libro, come disse lei stessa, era di indurre gentilezza, empatia e comprensione verso il trattamento dei cavalli. Una delle caratteristiche particolari di questo romanzo è che è stato scritto in prima persona. È il cavallo che parla. È la sua autobiografia. E già questo dà a Black Beauty molta più dignità. Ecco cosa dice a un certo punto. Sapete perché questo mondo è cattivo com'è? Perché la gente pensa solo ai propri affari e non si preoccupa di farsi sentire per gli oppressi, né porta alla luce chi fa del male. La mia dottrina è questa, che se vediamo crudeltà o azioni ingiuste che abbiamo il potere di fermare e non facciamo niente, allora diventiamo anche noi partecipi della colpa. Capirete che queste non sono parole per bambini. Era agli adulti che Anna si rivolgeva. Erano gli adulti che avevano a che fare coi cavalli, che dovevano smettere di dare calci, frustate, che dovevano trattarli con più gentilezza e rendersi conto che avevano uno spirito e delle loro sofferenze. E per fortuna, proprio grazie a questo libro, proprio grazie all'enorme successo che ebbe, venne in effetti abolito in Inghilterra l'uso di alcune redini che al tempo tenevano sempre alta la testa del cavallo, per pura bellezza. Una sofferenza tremenda per quegli animali, soprattutto quando il cavallo voleva abbassare la testa per poter spingere magari in salita un carro o voleva abbassarla per respirare meglio e non poteva. Anna era molto religiosa, apparteneva ai quaccheri, e i quaccheri erano convinti che non ci si dovesse approfittare degli animali, non bisognasse sfruttarli, perché erano creature di Dio anche loro. Quindi erano contro gli zoo, contro le pellicce, eccetera. Per Anna, quindi, questo libro fu una missione non solo animalista, ma religiosa. Come disse lei stessa, io sentii che valeva la pena perlomeno tentare di riportare i pensieri degli uomini in armonia con gli obiettivi di Dio su questo argomento. La lezione quindi che ci può insegnare è che durante una quarantena molto buia, intrappolata in casa come era anche lei, anche più di noi, molto più a lungo di noi, un'altra cosa che possiamo fare per illuminare il buio è scrivere. E magari scrivere per illuminare il buio di altri. Lei lo fece per quasi 8 anni. Anna Sewell ha scritto per gli altri, per gli adulti, per gli animali, e l'ha fatto con un obiettivo. Che il suo libro quindi sia diventato un libro per bambini, per me è uno schiaffo al suo ricordo. Spero quindi che appena potrete troverete una copia di questo bellissimo libro e comincerete a leggerlo, soprattutto se avete a che fare con cavalli. E per incitarvi a leggerlo, vi lascio leggendovi 2 dei primi capitoli, che ho tradotto dall'originale inglese. Io personalmente mi pento enormemente del mio breve periodo da cavallerizza. Ma torniamo al romanzo ora. Un romanzo scritto durante una quarantena durata 8 anni, da una persona che neppure poteva muoversi e che ha portato la luce a milioni di creature. Black Beauty, l'autobiografia di un cavallo, di Anna Sewell. Il primo posto che ricordo bene è stato un grande piacevole prato con dentro uno stagno di acqua limpida. Alcuni alberi ombrosi si sporgevano su di esso e giunchi e ninfe crescevano in profondità. Oltre la siepe, da un lato guardavamo in un campo arato e dall'altro guardavamo oltre un cancello nella casa del nostro padrone, che si trovava sul ciglio della strada. In cima al prato c'era un boschetto di abeti e in fondo un ruscello che scorreva sovrastato da una ripida sponda. Quando ero giovane ho vissuto del latte di mia madre, poiché non sapevo ancora mangiare erba. Di giorno correvo al suo fianco e di notte mi sdraiavo vicino a lei. Quando faceva caldo eravamo soliti stare vicino allo stagno, all'ombra degli alberi. E quando faceva freddo avevamo una bella tettoia calda vicino al boschetto. Non appena ebbi l'età di mangiare l'erba, mia madre andava a lavorare di giorno e tornava la sera. C'erano 6 giovani puledri nel prato, oltre a me. Erano più grandi di me. Alcuni erano grandi quasi quanto i cavalli adulti. Avevo l'abitudine di correre con loro e mi divertivo molto. Eravamo soliti galoppare tutti insieme, tutti intorno al campo, il più forte possibile. A volte giocavamo in modo piuttosto violento, perché spesso loro mordevano e davano calci oltre a galoppare. Un giorno, quando furono mollati parecchi calci, mia madre nitrì per chiamarmi da lei e poi mi disse: «Vorrei che prestassi attenzione a quello che sto per dirti. I puledri che vivono qui sono puledri molto bravi, ma sono puledri da carrozza e naturalmente non hanno imparato le buone maniere. Tu sei stato educato bene e sei un cavallo di razza. Tuo padre ha un grande nome da queste parti e tuo nonno ha vinto la coppa 2 anni di seguito alle corse di Newmarket. Tua nonna aveva il carattere più dolce di qualsiasi cavalla che io abbia mai conosciuto. E penso che tu non mi abbia mai visto scalciare o mordere. Io spero che crescerai gentile e buono e non imparerai mai a comportarti male. Fai il tuo lavoro con buona volontà, solleva bene i piedi quando fai il trotto e non mordere o scalciare, neppure per gioco». Non ho mai dimenticato il consiglio di mia madre. Sapevo che era una cavalla saggia e il nostro padrone aveva un'ottima opinione di lei. Si chiamava Duchessa, ma la chiamava spesso Cucciola. Il nostro padrone era un uomo buono, gentile. Ci dava del buon cibo, un buon alloggio e ci parlava con gentilezza, come parlasse ai bambini. Gli volevamo tutti bene e mia madre lo amava moltissimo. Quando lo vedeva al cancello, nitriva di gioia e si incamminava verso di lui. Lui l'accarezzava e le diceva: «Beh, vecchia cucciola, come sta il tuo piccolo Darky?» Io avevo il manto nero, quindi mi chiamava Darky. Poi mi soleva dare un pezzo di pane, che era molto buono. E qualche volta portava una carotina per mia madre. Tutti i cavalli gli andavano incontro, ma penso che noi due fossimo i suoi preferiti. Mia madre lo portava sempre in città in una giornata di mercato, a trotto leggero. C'era un ragazzino, Dick, che a volte veniva nel nostro campo per raccogliere le fragole dalle siepi. Dopo essersi mangiato tutto quello che voleva, si divertiva con i puledri, lanciandoci pietre e bastoncini contro per farci galoppare. Noi non badavamo molto a lui, perché potevamo galoppar via, ma a volte qualche pietra ci colpiva e ci feriva. Un giorno stava divertendosi in questo modo e non sapeva che il mio padrone fosse nel campo vicino, ma era lì, a guardare cosa stava succedendo. Saltò in un attimo oltre la siepe e afferrando Dick per un braccio gli diede un ceffone sull'orecchio che lo fece gridare di dolore e sorpresa. Appena vidi mio padrone mi avvicinai anch'io per vedere cos'era successo. «Monello!» gli disse. «Mascalzone, inseguire i puledri! Questa non è la prima volta, né la seconda, ma sarà l'ultima. Ecco, prendi i tuoi soldi e vai a casa, non ti voglio più nella mia fattoria». E così non abbiamo più rivisto Dick. Il vecchio Daniel, l'uomo che si occupava dei cavalli, era gentile tanto quanto il nostro padrone, quindi eravamo messi bene. E ora, arrivato a questo punto, il mio padrone continuò a domarmi per insegnarmi a portare l'imbragatura. C'erano sempre più cose da indossare. In primo luogo un colletto pesante e rigido sul mio collo e una briglia con dei grandi pezzi sui lati contro i miei occhi, chiamata paraocchi. E in effetti erano proprio paraocchi, perché non potevo vedere da nessuna parte, ma solo davanti a me. E poi c'era una piccola sella con una brutta cinghia rigida che andava proprio a legarsi sotto la mia coda. Quello era il crupper, per evitare che la sella scivolasse in avanti. Odiavo il crapper. Sentire che facevano un doppio giro alla mia coda e la infilzavano in quella cinghia era quasi orribile come il morso di metallo. Non ho mai avuto così tanta voglia di scalciare come in quel momento, ma ovviamente non riuscivo a dare un calcio a un buon padrone. Quindi, con il tempo, mi sono abituato a tutto e potevo fare il mio lavoro, oltre a quello di mia madre. Il mio padrone mi usava spesso per andare in carrozza in doppia imbragatura con mia madre, perché lei aveva un passo costante e così poteva insegnarmi come andare meglio di un cavallo che non conoscevo. Mia madre mi disse che meglio mi comportavo e meglio sarei stato trattato, e che era più saggio fare sempre del mio meglio per compiacere il mio padrone. «Ma», mi disse, «ci sono molti tipi di uomini. Ci sono buoni uomini premurosi come il nostro padrone, che ogni cavallo può essere orgoglioso di servire, e ci sono uomini cattivi e crudeli, che non dovrebbero mai possedere un cavallo o un cane. Inoltre ci sono molti uomini sciocchi, vanitosi, ignoranti e negligenti, che non si preoccupano mai di pensare. Questi rovinano più cavalli di tutti, solo per mancanza di buon senso. Non lo fanno apposta, ma lo fanno. Spero che tu cadrai in buone mani, ma un cavallo non sa mai chi potrà comprarlo o chi potrà guidarlo. Va tutta fortuna per noi, ma lo stesso, ancora, ti dico, fai del tuo meglio ovunque tu sarai e mantieni il tuo buon nome». No sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. If she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house ain't no home. Anytime she goes away. And I know. Hey, Olivia, dang along. But ain't no sunshine when she's gone. No sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house ain't no gone. Anytime she goes away. Anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away, anytime she goes away, yeah, yeah. Goes away. E se Anne Sewell, esponente del movimento cristiano protestante chiamato quaccherismo, nel 1877 si poneva la questione del maltrattamento dei cavalli, noi ci chiediamo se il cattolicesimo contemporaneo riponga qualche riflessione innovativa sulla questione degli agnelli. Quest'anno avremo per Pasqua le chiese vuote a causa del coronavirus, ma gli agnelli continuano a essere fatti a pezzi e messi in vendita nei supermercati. Abbiamo chiesto una riflessione al professor Luigi Lombardi Vallauri, amico della non violenza e filosofo sensibile alla questione animale. Secondo me l'emergenza virus non cambia molto quello che c'è da dire sulla Pasqua cristiana nel suo significato profondo. Può influire sui riti in chiesa, le processioni, insomma, sul rapporto in pubblico tra clero e fedeli, ma non sull'essenza. La Pasqua è per essenza la festa non della morte di Gesù, ma della sua risurrezione. Se Cristo non è risorto, dice San Paolo nella sua decisiva epistola ai Corinzi, noi siamo i più miserabili tra gli uomini. La fede cristiana è fondata sulla risurrezione. È vero che Gesù viene adorato anche come agnello di Dio per la sua morte in croce, per il suo autosacrificio, ma è evidente che l'essere Gesù, l'agnello di Dio, l'Agnus Dei, non ha niente a che vedere con il mangiare gli agnelli pasquali, gli abbacchi. Gli abbacchi non sono agnelli di Dio. Certo, Gesù era carnivoro, il figliol prodigo è festeggiato con un banchetto a base di vitello grasso. Gesù è amico di pescatori e tra i suoi super miracoli, prima della risurrezione c'è la moltiplicazione dei pesci per una mangiata collettiva e dopo la risurrezione la cattura di tanti di quei pescioni che si rompevano le reti. Di fatto, le solennità cristiane sono state abbinate a delle carneficine, i tacchini del Thanksgiving, i capponi di Natale, i maiali di Capodanno, gli agnelli di Pasqua e i pesci, ma tornando dalle carneficine al sacrificio. Il valore etico e religioso del sacrificio di animali è stato criticato drasticamente già mezzo millennio prima della nostra era da buddisti e jainisti, con argomenti inconfutabili. È nata allora la ahimsa, la non violenza, quella che Gandhi chiamava antica come le montagne e che secondo me è una componente imprescindibile del progresso, per non dire della sopravvivenza dell'umanità. È interessante notare che la non violenza nasce in India 2500 anni fa, non come non violenza tra esseri umani, per esempio come pacifismo, nasce come teoria del rapporto uomo-animali, come superamento critico dell'alimentazione carnivora e del sacrificio religioso. Concludo forse un po' bruscamente. Il coronavirus, come ho detto 2 settimane fa, restiamo animali, può renderci più pensosi sui nostri stili di vita, renderci più etici e più ecologici. Riguardo alla Pasqua, vedo almeno 2 revisioni necessarie. Da parte dei festaioli e dei loro fornitori, ridurre la domanda e l'offerta di abbacchio, cioè di carne di agnello macellato ancora lattante, e da parte della Chiesa Cattolica criticare esplicitamente una buona volta le carneficine abbinate alle solennità religiose, Pasqua in testa, di cui ho parlato prima. Gastronomica, il pasto gentile di questa settimana, il tosco vegan chef Gabriele Palloni ci propone una ricetta regionale vegana affinché la Pasqua sia davvero la festa della vita. Ricordiamo che Gabriele Palloni è autore del libro La cucina regionale italiana vegana, edizioni Newton Compton. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Se per questa Pasqua saremo segregati nelle nostre case, tanto vale rimboccarci le maniche e preparare un bel pranzetto senza crudeltà. Proviamo a portare in tavola un primo piatto originale che porta proprio una bella aria di festa: panzotti genovesi alla Ligure. Gli ingredienti per 6 persone sono 260 g di farina tipo 0, 40 g di farina di ceci, 100 ml di vino bianco, 50 ml di acqua, 400 g di bietole fresche, 400 g di borragine, 200 g di ricotta di soia oppure tofu scottato e schiacciato con una forchetta, un cucchiaio di lievito alimentare a scaglie, sale e pepe, maggiorana, uno spicchio di aglio, olio extravergine di oliva. Per prima cosa preparate la pasta. Disponete a fontana la farina di frumento e quella di ceci ed impastate col vino bianco, l'acqua, il sale e un cucchiaio di olio extravergine. Lavorate fino ad ottenere un impasto omogeneo. Coprite con la pellicola e lasciate riposare in frigorifero per almeno mezz'ora. Nel frattempo preparate la farcia. Lavate le bietole e la borragine, conservando qualche fiore che userete come decorazione del piatto. Togliete le coste più dure e tagliate grossolanamente il resto con un coltello. In una padella fate rosolare l'aglio in camicia con olio extravergine di oliva. Quindi unite le verdure e fate cuocere una decina di minuti con il coperchio a fuoco medio. Una volta cotte, lasciatele colare bene dal liquido di cottura. Successivamente togliete lo spicchio di aglio e tritate il tutto finemente a mano o con un mixer e mettete nuovamente a colare. Quando saranno intiepidite e avranno perso tutto il liquido, mettete in una ciotola ed unite la ricotta di soia, la maggiorana, il lievito alimentare a scaglie, sale e pepe ed un cucchiaio di olio extravergine. Impastate bene e se il composto dovesse risultare troppo morbido, aggiungete una patata lessata e schiacciata. Adesso riprendete la pasta e tiratela in una sfoglia piuttosto sottile. Con la rondella trinata tagliate dei quadrati circa 8 cm di lato. Mettete la farcia al centro, inumidite i bordi con poca acqua, aiutandovi con un pennellino da cucina, e chiudete piegando sulla diagonale per ottenere dei triangoli. Fate pressione sui bordi per evitare che si aprano durante la cottura. Man mano che saranno pronti, adagiate i panzotti su una spianatoia o un vassoio leggermente infarinato e coprite con un canovaccio. Lessate in acqua leggermente salata per circa 5 minuti. Scolate con la schiumarola e disponete nei piatti. Condite a piacere, consiglio un bel pesto di noci, decorando con i fiori della borragine. Crashing in into my little bird, painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed is in my... E siamo in chiusura, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Cocco e da Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 534 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.